il fosforo, innanzitutto bisogna spiegare cos'è il fosforo bianco. È un'arma che viene consentita dalle Nazioni Unite solamente se viene utilizzata o come illuminante, come tracciante la notte per illuminare i movimenti delle truppe, o per, come fumogeno per coprire gli spostamenti delle truppe stesse. Ma è anche un agente chimico il fosforo bianco. Se viene utilizzato in quanto tale sulle persone, sugli animali, questo lo dice l'articolo 2 della convenzione che vieta l'utilizzo delle armi chimiche, se viene utilizzato contro persone o contro animali e ne provoca la morte temporanea o l'inabilità fisica, anche per un breve periodo, è da considerarsi a tutti gli effetti un'arma chimica. Israele e gli Stati Uniti non hanno firmato la convenzione che era stata preparata dall'ONU dopo le immagini che venivano dalla guerra del Vietnam negli anni 70, che riproducevano dei corpi bruciati di bambini e donne, di civili in Vietnam, che erano stati bombardati con le armi incendiarie al napalm, e dal loro punto di vista hanno la licenza di utilizzare queste armi anche nei teatri di guerra attuali.